L'iniziativa si chiama Chiamata per le Rinnovabili, non a caso perché noi vogliamo veramente coinvolgere la cittadinanza nella presa di coscienza del grave ritardo del nostro paese per quanto riguarda la transizione energetica. Non abbiamo ancora una legge sul clima, non abbiamo ancora un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi siamo indietro. Contemporaneamente, proprio a Ravenna, ed è qui che abbiamo la scelta di farla a Ravenna, invece Eni sta non solo lavorando tramite SNAM al rigassificatore, ma ha in campo già un progetto pilota di impianto per la cattura e lo stoccaggio della CO2, che noi pensiamo sia collegato all'idea di estrarre l'idrogeno blu tramite metano, quindi continuiamo nella politica dei fossili. Su questo vogliamo richiamare l'attenzione della popolazione, chiamata per le rinnovabili, e anche dare una spinta, una svolta verde nel sistema energetico del nostro paese. Noi pensavamo che l'alluvione avesse insegnato qualcosa, invece non vediamo dei segnali che vadano incontro in maniera coerente alla lotta all'emergenza climatica, che ormai è sotto gli occhi di tutti, salvo alcuni che ancora sostengono che l'alluvione è colpa delle nutrie che scavano i fossi negli argini. Ravenna è un po' lo snodo, appunto, la questione del rigassificatore, l'appello che lanciate sulle rinnovabili, una transizione difficile. Quali saranno le scelte dei Verdi per le prossime comunali? Si vota in molti comuni importanti, poi la regione. Continuerete con il centro-sinistra? Ne stiamo ragionando, abbiamo fatto di recente un incontro anche con il segretario regionale del Partito Democratico. È chiaro che noi non parteciperemo a coalizioni che sostengano candidati sindaci per noi non adatti appunto ad affrontare anche la sfida climatica, oltre che tutte le tematiche ambientali che sono nel nostro DNA, e vogliamo anche avere parola sui programmi delle coalizioni, quindi c'è un dialogo aperto. Non posso dire quale sarà il punto di caduta, ma c'è un dialogo aperto. Ecco, poi vorremmo che, a differenza di quanto è successo in regione, che siamo in maggioranza ma non siamo rappresentati in giunta, in eventuali maggioranze di cui faremo parte ci sia anche la presenza dei Verdi nelle giunte. Per la regione vi augurate un terzo mandato di Bonaccini, di cui ancora si parla? Ma questo è un discorso un po' delicato, nel senso che la questione del terzo mandato di Bonaccini è legato anche a dinamiche nazionali, di cambiamenti di legge. Diciamo che noi abbiamo sostenuto lealmente Bonaccini alle elezioni perché eravamo parte di una compagine contraria all'ipotesi stessa che il centrodestra potesse governare questa regione. Io lo vedo anche nella mia attività in assemblea legislativa, che sulle tematiche nostre la destra è lontana veramente anni luce. Quindi anche in questo caso noi diciamo candidati, dati, programmi coerenti che ci permettano quella svolta verde che noi vogliamo portare in regione e nel paese, perché ce n'è bisogno, non è un nostro pallino, è proprio un'urgenza dettata dalla situazione.